diciamo, andando per le strade si trova un po' di spazio aperto, però poco poco. Forse prima era ancora più curato, in questo senso, no? Poi io non ho di notare altre cose, no? Non lo so, forse c'è di disoccupazione un pochettino rispetto a prima. Ma questo succede anche in tutti i paesi, non è solamente qua in Egitto, quindi non è un rilievo negativo, ecco, questo è una cosa ordinaria, normale, insomma, questo francese in cui siamo invece. E poi, non lo so, almeno io non ero un impiato di eccezionale straordinario, insomma, quindi con questa occasione anche per dire venite cari amici, venite in Egitto e passate un bel periodo. Perché la cerca di Egitto tutti i giorni, specialmente in questi giorni. Perché? Cerca poco tra qualità e prezzo, o per qualcosa? Sì, perché anche è una bassa stagione, quindi dovrebbe costare di meno, ecco, rispetto all'altro periodo dell'anno. Ma anche noi pensavamo che venendo prima in aprile la temperatura fosse anche più bassa, anche questo abbiamo detto. Non c'era altra differenza, lo penso, forse se avrà anche più di più, magari una cosa più alta, 30, 35, 40 gradi anche di più magari. Quindi insomma, questo pensavo che fosse il periodo migliore. Questo abbiamo pensato, vero? Sì. Grazie. Dal punto di vista della sicurezza qua in Egitto, qual è stata la sua impressione? Io ho visto che tutto è tranquillo, tutto normale, quindi i luoghi più importanti vengono presidiati, naturalmente non in vista, così tutto tranquillo normalmente, quindi almeno non ci dovrebbe essere pericolo, perché la sorveglianza è perfetta, ecco, questo dico. E ci racconti, ecco, della sua esperienza turistica qua in Egitto? Fino ad ora è stato tutto perfetto, tutto si è svolto secondo il programma, ci hanno accolti molto bene e ne ho seguito, per esempio noi abbiamo da che fare con le guide, quindi hanno fatto il loro lavoro come lo devono fare, anzi in modo egregio hanno fatto proprio molto bene, quindi io adesso li ringrazio anche in questo momento, quindi tramite loro, tramite diciamo, i loro occhi, abbiamo potuto seguire tutte le vicende dell'Egitto dall'antichità fino ad ora, perché ci hanno parlato di diversi periodi, di diversi tempi, quindi stamattina per esempio abbiamo girato la cittadella del Saladino per esempio, e quindi questo è un altro periodo della storia dell'Egitto, il periodo islamico, il periodo arabo, no? Quindi ci hanno parlato anche di questo periodo e anche di altri periodi praticamente, perché tutti i governanti che si sono avvicendati hanno cercato di far sorridere il paese. Quindi mi sono trovato bene, guarda, la maggior parte delle cose le sapevo, ma la vita mi diceva di questo e questo, io già lo sapevo, però qualche cosa anche ho preso, la novità. Quindi mi sono trovato molto bene, in Egitto non posso dire che penso contro quello che abbiamo visto in Egizia qua, siamo contenti di averlo fatto, quindi è andato molto bene, e ora siamo qua a questo punto, pronti a rientrare in Italia, però con qualcosa in più di quando siamo venuti, ripartiremo con la mente piena di questi ricordi, di queste visioni che abbiamo visto, di questi siti archeologici, di queste cose qua, ecco questo, anche con il capo, ovviamente, però siamo contenti di portare qualcosa in più anche di quando siamo venuti. Certo, il caldo è proprio una cosa particolare dell'Egitto, l'Egitto senza caldo non sarebbe l'Egitto. Non sei giustamente, concordo anche con questo. Dunque, abbiamo visto il museo, qua a Cairo, il museo appunto della città, no? Che è molto ricco, di reperti faraonici, no? Abbiamo visto tante cose, sarcofagi, mummie, marche solari, tutte queste cose qua, insomma, gioielli che usavano, tutte queste cose qua, tutte invece la sua storia, il nome dei faraoni, delle regine, degli dei, che ci hanno parlato anche di vivo, no? Perché diciamo che gli egizi avevano un futuro gruppo di dei praticamente, no? Tantissimi altri anche degli dei, no? Tante cose là, che si credono ovviamente nella al di là, perché poi questo si facevano portare anche nella tomba i cibi, perché credevano che poi gli sarebbero servite nell'aldilà praticamente, questo qua. Diciamo tante tradizioni, tante cose, quindi è inutile, e non è inutile, voglio dire, sarebbe troppo lungo parlarne in questa sera, questo è, quindi, però sono contento di quello che ho appreso, infatti l'avevo già appreso tramite la Radio Cairo, quindi è letto anche da parte mia di certi libri che io. E la crociera sul Nilo? La crociera sul Nilo è stata molto bella, che abbiamo visto anche sulle sponde che abbiamo, dove siamo transitati, tutti i paesaggi che scorrevano man mano che la nave camminava, e anche i contadini che lavoravano, le bestie che erano lì a pascolo, messi là, insomma, un paesaggio bucolico. Insomma, sì, anche il deserto cioè, c'era ovviamente, no? Però insomma c'era anche erba, altri cose, un po' un ambiente diverso, insomma, abbiamo visto. È stato anche nel deserto, quindi? Sì, c'era un certo periodo, c'era la sabbia in certe zone del terreno. Quindi abbiamo dovuto attraversare anche il deserto, non c'è dove tanto. È venuto qui a visitare la prestigiosa Radio Cairo del mattino della radio televisione egiziana, è un'importante istituzione dell'Egitto, è una radio importante che trasmette da tantissimi anni sia in Egitto in lingua italiana e sia anche al di fuori dell'Egitto verso l'Europa sempre in lingua italiana, e quindi ho conosciuto tutta la redazione. Sì, sono contento ciascuno di voi qua, davanti a me che mi parlo le persone, e vi ringrazio per averci accolto così in modo amichevole, e sono contento di avere un ricordo della relazione, e cercherò di fare anche un articolo sulla Radio Cairo, alla quale unirò anche il foro del gruppo della relazione. Grazie signor Giovanni. Prego. Speriamo di rincontrarla presto qui a Mastino. È il mio augurio. Grazie. Da Radio Cairo, care amiche e amici, vi abbiamo presentato una puntata speciale di Microfono Con, in cui abbiamo avuto l'onore di presentarvi il signor Giovanni Sergi e la sua moglie Cinzia. Il Giovanni Sergi, ricordiamo, è il fondatore del GARS, il gruppo Ascolto Radio dello Stretto, club per i radio appassionati sorto nel 1979. Per Microfono Con, Antonello Bocchino. Sono le 20:15 qui in Cairo, radio diffusione della Repubblica Araba d'Egitto, la loro onda notiziaria. Assunto delle principali notizie al discorso del presidente Morsi davanti al vertice dell'UE. Incontro Kerry-Fabius, Lavrov, lunedì a Parigi. L'opposizione siriana chiede al regime di Damasco gesti di buona volontà prima della conferenza internazionale di pace Ginevra 2. La Francia dà il via al ritiro delle sue forze dal Mali. E ora ecco le notizie in dettaglio. L'Unione Africana festeggia il suo cinquantenario, in caso di stanza dei 54 paesi membri, hanno aperto il canale da Lussemburgo la celebrazione della nascita dell'Organizzazione dell'Unità Africana, progenitrice dell'attuale UA. Sono presenti anche il segretario di Stato Ivo John Kerry, la presidente brasiliana Dilma Rousseff e il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. È atteso anche l'arrivo del presidente francese François Hollande. Da parte sua, la presidenza brasiliana ha annunciato oggi ad Addis Abeba la cancellazione del debito di 900 milioni di dollari di 12 paesi africani, tra cui la Repubblica del Congo Brazzaville e la Tanzania, per la celebrazione del cinquantenario dell'Unione Africana. Avere relazioni speciali con l'Africa è strategico per la politica estera brasiliana, ha affermato il portavoce della presidente Dilma Rousseff, Thomas Straumann. Il presidente Mohamed Morsi ha affermato oggi l'importanza di unire i ranghi perché i paesi africani proseguono la loro lotta congiunta. Nella sua posizione pronunciata davanti al vertice straordinario dell'Unione Africana ad Addis Abeba, il presidente Morsi ha dichiarato che il principale obiettivo dei paesi africani deve essere la realizzazione dello sviluppo globale nel continente. Egli ha aggiunto che i paesi africani si attaccano a stabilire un esempio di una complementarietà tra i partner nel continente. Il capo dello Stato ha inoltre esortato alla necessità di adottare nuove politiche effettive al fine di realizzare i profitti africani e di servire il futuro processo di cooperazione. Si ricorda che il vertice dell'UAR ha cominciato i suoi lavori nella capitale etiopica questa mattina, dato che coincide con il cinquantenario dello stabilimento dell'Organizzazione dell'Unione Africana che si è trasformata dopo l'Unione Africana. Il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli esteri francese Laurent Fabius incontreranno in Parigi il loro omologo russo Sergei Lavrov per discutere della futura conferenza internazionale sulla Siria. Lo hanno annunciato fonti ufficiali. L'incontro ci sarà dopo la riunione a Istanbul dell'opposizione siriana, che deve decidere la sua partecipazione a Ginevra 2, e dopo il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri dell'Unione Europea, che deve pronunciarsi lunedì sulla revoca dell'embargo sulle armi dirette all'opposizione siriana. La coalizione nazionale dell'opposizione siriana ha reclamato durante una riunione a Istanbul gesti di buona volontà del regime del presidente Bashar al-Assad prima di prevedere una partecipazione comune ai negoziati nel quadro della conferenza internazionale di pace ribattezzata Ginevra 2. È molto importante per noi avere gesti di buona volontà dei due campi. Vogliamo essere sicuri quando avvieremo questi negoziati che il bagno di sangue sia concluso in Siria, ha dichiarato durante un punto stampa Khaled Salah, uno dei portavoce della coalizione, che rappresenta il principale gruppo dell'opposizione siriana. La coalizione nazionale dell'opposizione siriana includerà oggi la sua riunione iniziata due giorni fa e stanno. Sono le 20:20 da Radio Cairo, stiamo trasmettendo il notiziario. Il ministro saudita degli esteri, principe Saud al-Faisal, ritiene che il presidente siriano Bashar al-Assad non debba partecipare alla conferenza internazionale di Ginevra. Appoggiamo la volontà del popolo siriano, che senza chiaramente il suo desiderio di non dover rivolgere alcun ruolo né a Bashar al-Assad né a nessun altro con le mani sporche di sangue siriano, ha detto il ministro Jordan. E di almeno 5 morti e 19 feriti, il bilancio di un attentato compiuto oggi contro un gruppo di sciiti iraniani in pellegrinaggio in Iraq, lo ha reso noto fonti mediche di polizia. Un'autobomba è stata fatta esplodere al passaggio di un tunnel a bordo del quale viaggiavano i pellegrini sulla strada che collega due città in bar della capitale, Bara del Samara. Quest'ultima sede di un importante mausoleo sciita. La maggior parte delle vittime sono pellegrini. La Francia va fin via la prima parte del ritiro dal Mali, 4 mesi dopo l'invio di truppe per respingere i ribelli islamici nel nord del paese africano. Lo riferisce la BBC, un convoglio di camion ha lasciato una base francese al di fuori della capitale Bamako in direzione sud verso la costa d'Avorio. L'obiettivo è di continuare con lo sforamento all'esercito maliano e una forza di pace nel mondo in controllo del paese in vista delle elezioni di luglio. Un Boeing diretto a New York con 230 passeggeri a bordo è stato costretto a fare ritorno a Mosca a causa dell'incendio del motore, lo rendono noto fonti russe citate dall'agenzia di stampa Interfax. L'aereo decollato dall'aeroporto di Vnukovo è tornato con un atterraggio di emergenza a Sheremetyevo. 9 persone, tra cui 3 poliziotti e 6 passanti, sono rimaste ferite oggi in un attentato kamikaze davanti alla sede del Ministero dell'Interno nella capitale del Dagestan. L'attentatore, secondo una prima ricostruzione, si è fatto esplodere all'interno di un'auto quando alcuni agenti gli hanno chiesto documenti per un controllo. E questo è il secondo attentato nel giro di pochi giorni, il precedente aveva causato 4 morti. 11 persone, tra cui 7 militari e 5 terroristi, sono morte nell'estremo sud delle Filippine in uno scontro a fuoco tra le forze armate e il gruppo islamico Abu Sayyaf, considerato legato ad Al-Qaeda. Lo ha comunicato l'esercito di Manila. Il combattimento esplose all'alba nel villaggio di Tugas sull'isola di Sulu, causando almeno un altro 21 di feriti tra gli schieramenti. L'operazione militare sono ancora in corso. Nuova giornata di battaglie in Afghanistan tra le forze di sicurezza e i talebani. I combattimenti sono scoppiati stamani quando un comando composto da decine di ribelli ha attaccato un checkpoint della polizia locale afghana nella provincia di Rajasthan, in Afghanistan orientale, innescando scontri durati 4 ore. Il bilancio di un ufficiale di polizia, 21 soldati uccisi e 17 ribelli feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa RTA, secondo cui nei combattimenti erano ferito anche un militare delle forze della coalizione. Di un soldato americano. 17 bambini sono morti in Pakistan a causa dell'esplosione del serbatoio di gas del tunnel che li portava a scuola. È successo alla periferia di Gujarat, nel nord del paese. Dopo l'esplosione, il veicolo si è incendiato e gli scolari sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Altri 7 bambini sono rimasti feriti. È un fatto molto triste, stando alle nostre informazioni, almeno 17 piccoli sono morti bruciati. Una scuola bus ha preso fuoco dopo l'incidente. Abbiamo trasportato tutte le vittime in un ospedale vicino, ha raccontato una storia ufficiale di polizia. L'incidente arriva dopo che ieri i militanti hanno ucciso 9 persone in 2 attacchi nel nord-ovest del paese. Le autorità dello stato di Rakhine in Birmania hanno imposto un limite di 2 figli alle famiglie dei musulmani in Rohingya. La regola non si applica ai buddisti che vivono nella stessa zona e arriva mentre le autorità sono accusate di pulizia etnica a seguito di violenze settarie. Ufficiali locali hanno dichiarato che la nuova misura si applicherà a 2 cittadini di Rakhine che confinano con il Bangladesh e che hanno il più alto numero di popolazione musulmana dello stato. Si tratta di Bukit Daung e Maung Daung, al 95% musulmane. La regola rende la Birmania l'unica paese al mondo intero una restrizione simile a un gruppo religioso, cosa destinata ad attirare ulteriori accuse di discriminazione nei confronti dei musulmani da parte della maggioranza buddista. E questa era la nostra ultima notizia da Radio Cairo, vi abbiamo trasmesso il notiziario. Radio Cairo vi presenta dossier economico. Un programma pure di media. Ciao, scusatemi, ho ritrovato la nuova puntata del vostro programma, nel prossimo quale faremo luce sull'attività economica iniziale e questa relazione di cooperazione economica tra l'Egitto e i paesi del mondo. Dedicheremo la puntata di stasera a parlarvi delle relazioni di cooperazione economica e degli investimenti congiunti tra l'Egitto e l'Italia. Seguiteci. L'ambasciatore italiano in Italia, Maurizio Massari, ha sottolineato la grande importanza data dal suo paese a rafforzare la cooperazione economica e a promuovere gli investimenti con il Cairo, alludendo al fatto che l'Italia è il primo partner commerciale europeo dell'Egitto con un volume di interscambio commerciale che ha raggiunto la cifra di circa 5,2 miliardi di dollari, il 6% del commercio dell'Egitto con l'Egitto. Gli investimenti italiani in Egitto si concentrano nel settore dell'industria, del petrolio e del gas e sono stabili malgrado alcuni problemi, ha proseguito Massari. Il messaggio che l'Italia vuole inviare all'Unione Europea, al G8, nonché a tutte le istituzioni internazionali, è quello che l'Egitto è un paese importante che va supportato ora e non domani. E il nome si evidenzia che il programma italiano dell'inversione di debiti può contribuire a finanziare la propria attività, esercitando dalla priorità alla formazione professionale, operando per estendere l'attività del Politecnico del Don Bosco, che sarà trasformato in un'università tecnologica italiana in Egitto, aprendo le nuove filiali nella zona del Delta. D'altronde il presidente del Business Council Italia-Egitto, ingegner Ahmed Arafa, ha detto che l'Egitto aspetta che l'Italia sia il partner strategico, sia il più grande partner commerciale in Europa e dia una mano per supportare tale fase transitoria, informando che il Cairo ha tutte le competenze, opportunità e potenzialità capaci di attirare gli investimenti esteri italiani. Le relazioni tra l'Egitto e l'Italia, il più grande acquirente di prodotti egiziani, sono storiche, ha evidenziato Arafa, aggiungendo che gli investimenti italiani in Egitto ammontano oltre 1,5 miliardi di dollari tramite oltre 800 aziende operanti nel settore del paese in tutti i settori produttivi e di servizi. Le aziende italiane, che hanno delle buone esperienze di investimento nei mercati egiziani fin dagli anni 60, possono istituire delle tematiche di ordine industriale in Egitto, specie in settori in cui l'Italia ha dei vantaggi competitivi come l'autoindustria, le ferrovie, gli abbigliamenti, la gioielleria e il turismo, ha proseguito il presidente del British Business Council Egitto-Italia. Armati di mascherine protettive, a volte impeganti tutte da lavoro, diversi archeologi egiziani indefinibili sono scesi nel febbraio 2012 fino al fondo della cavità che per 4500 anni ha ospitato una delle due basi solari del faraone Cheope, 2579 a.C. 2556 a.C. ai piedi della sua pirata nella piana di Giza. Questa è la seconda delle due barche solari scoperte, quella che a differenza della prima venne lasciata nella sua forza originaria e non fu all'epoca ricostruita. Si tratta di un vero e proprio rompicapo composto da 600 listoni di legno che dopo essere stati estratti e restaurati saranno di nuovo assemblati ed esposti al pubblico. Secondo quanto previsto dal team di ricerca, le operazioni di restauro e di assemblaggio dureranno circa 5 anni. Sempre secondo quanto dichiarato il generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egiziane, Mustafa Amin, il progetto sarà avviato il più presto possibile e ogni pezzo di legno sarà attentamente analizzato per trovare in quali parti deteriorate. E secondo Amin, la parte solare di Cheope è un oggetto meraviglioso, la cui importanza si può paragonare a quella di una mummia, visto che è stata smontata di diversi pezzi, ognuno dei quali è stato trattato con prodotti per garantire loro la massima conservazione nel tempo. Nonostante tutto, Amin ha anche precisato che i primi risultati delle ricerche hanno evidenziato che alcuni listoni di legno sono stati danneggiati dall'entrata dell'aria e dell'acqua mista al cemento, utilizzata nel corso dei lavori di costruzione del museo, che a pochi metri dalla piramide esibisce da una trentina di anni le prime navi, scoperte nel 1954. Le analisi condotte precedentemente, effettuate tramite la tecnologia dei raggi X, già avevano reso noto che i principali componenti del legno avevano già subito un severo deterioramento. La fortuna delle basi solari non è stata identica per tutte. La prima, infatti, era formata da 651 pezzi distinti che l'archeologo egiziano Kamal El-Malai impiegò 13 anni per assemblare. Misura 43,4 metri di lunghezza, 5,6 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza. È stata costruita con legno di cedro originario del Libano e le tavole che compongono lo scafo sono unite tra di loro con delle corde. Secondo Amin, la seconda imbarcazione è di dimensioni inferiori, quindi il suo assemblaggio richiede un tempo inferiore, grazie anche alle nuove tecniche che sono state sperimentate e comprovate sul campo con la prima barca. Altre due imbarcazioni sono state rubate e la quinta non è ancora stata disotterrata. Assemblare tutti i pezzi per ricomporre la barca potrebbe anche portare maggiore chiarezza sullo scopo per cui sono state costruite. Alcuni archeologi infatti pensano che non si tratti di barche funerarie che avrebbero dovuto trasportare il corpo del faraone dalla città fino al luogo di sepoltura, ma di oggetti realizzati in onore di Ra, il dio del sole. Ancora, secondo Amin, le barche potevano rappresentare anche solo uno sfoggio di ricchezza e di potere da parte del faraone, esattamente come avviene anche nel mondo moderno, dove personaggi importanti amano circondarsi di numerose auto e barche. In tutti i modi, l'origine delle barche rimane misteriosa, tanto quanto la loro finalità. Inizialmente si è pensato di esibire la barca al Gran Museo Egizio del Cairo, un progetto faraonico che sta sorgendo presso la piramide di Giza e la cui inaugurazione è prevista intorno al 2015. Amin però propende per l'ipotesi di lasciarle dove sono state trovate, in luoghi a cui fondamentalmente appartengono. In Radio Cairo vi abbiamo presentato quattro chiacchiere. Quella di Anesia, presentato per voi da Antonello Bettini. Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova edizione del nostro programma Panorama Artistico, che stasera tratterà di lancio del Festival Convoglio delle Arti nella Chiesa di San Giorgio a Mani, conferenza e atelier di lavoro sulle incisioni archeologiche greco-romane e copte alla Biblioteca di Alessandria, iniziativa di scoperta di sé per lo sviluppo al Beit El Seminari. Recentemente le attività del Festival del Convoglio delle Arti hanno preso avvio nella chiesa di San Giorgio a Mani, nella sua quinta sessione, sotto il titolo Nella pace e nell'amore, il cammino in avanti. Il Festival insiste quest'anno sulla discussione del problema della sedizione confessionale e sul rispetto delle convinzioni e delle religioni. Il Festival, come d'abitudine ogni anno, comprende delle forme multiple di arti, ad esempio l'arte plastica, la lettera, il cinema e la musica. Il Festival è in partenariato con l'ambasciata svizzera al Cairo, in presenza di un gran numero di personalità pubbliche. È cominciato con un'esposizione di arti plastiche che presentava le opere di 45 artisti dei due sessi di differenti tendenze, età e nazionalità. L'esposizione raggiunta 90 opere di 30 artisti egiziani e 15 artisti stranieri. L'ospite del festival quest'anno è l'artista Amru Wakib, che partecipa a una conferenza sul suo ultimo film l'autunno scorso, che parla della rivoluzione egiziana. Il festival ha anche accolto l'uomo di lettere medico Alain Aswani, che ha pronunciato il discorso nel corso del quale ha parlato della sua ultima opera letteraria, Il Club delle Automobili. Il Centro di Studi delle Scritture e della Calligrafia della Biblioteca di Alessandria accoglie una conferenza e un atelier di lavoro a proposito delle incisioni archeologiche greco-romane e copte nella Biblioteca di Alessandria, sotto il titolo Le Scritture dei Monasteri Copti. La conferenza è centrata sull'importanza della scrittura nella cultura monastica egiziana e in particolare sulle incisioni murali e la calligrafia in epoca bizantina e all'inizio dell'epoca islamica, nonché sul lavoro archeologico e le scritture scoperte recentemente al monastero rosso a Sohan dopo i lavori di restauro completati nel 2012. Una riunione in corso di organizzazione sotto il titolo di Come le incisioni archeologiche greco-romane copte possono essere lette e diffuse. L'atelier presenta quest'anno un corso pratico agli archeologi e ai ricercatori per la lettura e la copia delle incisioni greco-romane in copte e il trattamento di queste incisioni prima di conservarle nelle liste dei banchi elettronici utilizzando XML Markup fino alla loro preparazione alla diffusione. Beit El Seminari organizza in cooperazione con l'Istituto CIMAS un incontro di informazione sull'iniziativa della scoperta del sé per lo sviluppo. Il programma presenta delle sessioni di ricerca basate sul messaggio dello studio delle scienze e delle lettere nelle sfide attuali affrontate dalle associazioni dello sviluppo, intesa alle quali è la città del Cairo. Il programma comprende delle conferenze di preparazione alle arti, alla cultura, alle scienze naturali e sociali, al fine di qualificare gli studenti sul piano intellettuale e culturale ed equipaggiarli alle competenze differenti che devono essere acquisite, oltre alle conoscenze teoriche. Ha notato che il Beit El Seminari è una casa di scienza, di cultura e di arte e si trova a Saida Zeinab, quartiere celebre del Cairo che comprende delle attività culturali come il seminario di Adarti per gli studi storici e il seminario dei documenti. Organizza inoltre una varietà di attività per i giovani come per esempio il salone letterario della giovinezza, oltre a qualche esposizione culturale, artistica, cerimonie musicali e canzoni, nonché qualche sessione di ricerca e numerosi ambiti. E così, cari amici, a termine la nostra puntata di oggi, arrivederci a Kitsumaka. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Panorama Artistico, un programma a cura di Heba Rashid, presentato per voi stasera da Marco Alloni. Thank you. radio è Mina Argi. Il programma sera di Mina Cellini. Carissimi amici, buonasera. La fitoterapia, detta anche la scena botanica, è una disciplina basata sull'uso di semi, bacche, radici, fogli, corteccia, fiori, per scopi medicinali. La fitoterapia ha una lunga tradizione, ciò che riguarda il suo utilizzo in sostituzione della medicina convenzionale. Sta diventando sempre più una tendenza per migliorare il controllo e la qualità della vita. I progressi della ricerca clinica mostrano sempre di più il valore della medicina a base di erbe nel trattamento e prevenzione delle malattie. Le piante sono utilizzate per scopi medicinali da millenni. Anzitutto, i cacciologi e i papiri egizi descrivono gli usi medicinali delle piante. Culture indigene, come africani, nativi e americani, usavano ed usano erbe nei loro rituali di guarigione, mentre altre culture hanno sviluppato sistemi di medicina tradizionale, come l'Ayurveda e la medicina tradizionale cinese, in abbinamento ai usi erboristici. I ricercatori hanno scoperto che le persone che abitano in parti diverse del mondo tendono ad utilizzare gli stessi rimedi che presentano le medesime finalità. La fitoterapia può oggi essere considerata la prima forma di medicina utilizzata dall'uomo. La psicoterapia, carissimi amici, è utilizzata per trattare molti disturbi, come l'asma, eczema, la sindrome premestruale, l'artrite reumatoide, l'emicrania, i sintomi della menopausa, la stanchezza cronica e la sindrome dell'intestino irritabile. Integratori a base di erbe hanno un effetto molto efficace, devono essere assunti sotto la guida di persone qualificate. Assicuratevi quindi di consultare il vostro medico o farmacista prima di prendere qualsiasi rimedio fitoterapico. Nel XIX secolo le prime analisi chimiche furono disponibili, gli scienziati cominciarono a estrarre e modificare i principi attivi presenti nelle piante. Più tardi i chimici hanno iniziato a personalizzare le preparazioni dei composti vegetali. Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Salute ha stimato che l'80% delle persone in tutto il mondo si affidano a farmaci a base di erbe per una parte della loro assistenza sanitaria di base. Carissimi amici, siamo purtroppo giunti al termine della nostra puntata. Sentirci gli altri tutti i giorni. Ora vi consiglio ascoltate gli altri. Il programma è stato presentato da Anna Cini alla tecnica Muhammad al-Muhammad. Radio Cairo vi invita all'ascolto di Egitto in vento. Padova 19 aprile fino a 30 giugno 2013. Rovigo dal 12 aprile 2013 al 16 giugno 2013.